dici niente, sei la mia persecuzione, dannata, bellissima, tristissima. Il paese non ti vuole, non hai il suo stesso colore, ma la soluzione sai, è un omicidio di massa. Parli ancora peggio. Benvenuta all'inferno. Fai bene ad aver paura, se il cielo ci crolla addosso. Gli uomini non cambiano, lo diceva anche Mimì. Avanziamo, odiamo, ma cosa diventeremo? C'è quelle nubi grigie, come se non fossero mai esistite. Giudicare non fa male, ma quello che hai visto non lo puoi certo dimenticare. Sogna, sorella del sole, saremo mai così diversi, e tu lo sai, qui avevo le luce di speranza, muore come muoio io nel vederti andar via verso un'altra vita, dannata, bellissima, tristissima.